Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Benvenuti ad una nuova puntata, vi auguro una buona giornata. Se vi siete alzati da poco e ci sentite di buon mattino, vi auguro una buona serata se invece ci ascoltate in replica alle 20.45. Vi ricordo la mail, vi prego casi non personali, unabusoalgiorno@radio24.it. Vi ricordo anche il mio blog, si chiama Guardie o Ladri e lo trovate sulla home page del Sole 24 Ore. Questa volta ve lo segnalo ancora più caldamente perché affronto in questo blog moltissimo il caso Why Not, di cui oggi parleremo. E perché ne parleremo? Perché ho invitato a dialogare con noi il dottor Piero Sagona, che è un ispettore della Banca d'Italia, è stato per moltissimi anni ispettore della Banca d'Italia e poi è diventato preziosissimo consulente di molte procure italiane per quanto riguarda gli aspetti economico-finanziari. Ed è stato consulente anche del dottor Luigi De Magistris nell'inchiesta Why Not, ma molte tracce del suo lavoro le potete trovare anche nel decreto con il quale la Procura di Salerno ha richiesto gli atti di Why Not e Poseidone. Altra inchiesta avvocata De Magistris appunto ha chiesto questi atti alla Procura di Catanzaro. E la prima cosa che vorrei domandare al dottor Sagona, che saluto, è in cosa si differenzia il suo lavoro da quello del dottor Gioacchino Genchi, i cui supposti abusi, ed è per questo che cerchiamo di capirne di più, sono attualmente sotto i riflettori di testate giornalistiche e no. Ma il dottor Gioacchino Genchi è un tipo molto particolare di consulente, perché ci vuole una specifica competenza tecnica che oggigiorno penso non molti abbiano. Certamente lo scopo di ottenere, di avere la collaborazione del dottor Genchi è normalmente molto mirata, perché bisogna che il PM si ponga degli obiettivi ben precisi e che possono essere risolti, ai quali si può rispondere soltanto con l'attività tecnica del dottor Genchi, che come ormai è noto è abilissimo nel seguire le tracce, quello che si chiama la tracciabilità di un telefono cellulare, che comprende sia le linee, le telefonate fatte, non il contenuto delle telefonate ovviamente. Certo, il tracciato. I telefoni con i quali la stessa email del telefono che identifica il cellulare si mette in contatto. Ecco, le vorrei chiedere questo. Lei si è trovato spesso a lavorare con il dottor Genchi? Se sì, quale tipo di rapporti di collaborazione avete avuto? Proficuo oppure no? Io la prima volta che mi trovavo ad avere nel team del magistrato un consulente del dottor Genchi. Devo premettere che il dottor Genchi, ho avuto modo di conoscerlo direttamente a Palermo, ne ho una eccellente impressione, perché per me è una persona per bene, è una persona affabile, una persona di una ricchezza umana notevole e anche di una notevole cultura. La mia impressione è stata molto positiva, anche perché io sono curioso di natura, quindi era un mondo che conoscevo poco e ho avuto modo di approfondire. Ecco, se posso spingermi a chiederle un giudizio personale, lei risponda ovviamente come crede e poi chiudiamo la parentesi Genchi. Secondo lei ha abusato del suo ruolo oppure no? Io personalmente non lo ritengo, anche perché c'è qualcosa di logico. Il dottor Genchi viene citato oggi sempre come il consulente del dottor De Magistris. Il dottor Genchi è stato consulente, come è noto, in decine di processi di mafia importantissimi, a cominciare dalla strage di Capaci e finendo all'incidio del dottor Borsellino, al sequestro Melis in Sardegna e tante altre procure. Per cui se il dottor Genchi è impazzito, ha abusato di quello che poteva essere i segreti istruttori di cui veniva a conoscenza, l'avrà fatto prima, l'avrà fatto anche dopo, ma non certamente, non penso che l'abbia, è illogico che l'abbia fatto soltanto a Catanzaro e per un'inchiesta che poi l'ho vista protagonista per qualche anno, per pochi mesi. Ecco, quindi diciamo così che lo era anche prima, non penso che lo sia diventato a Catanzaro. Ecco, quindi il suo giudizio mi pare di capire che sia, mi corregga se sbaglio, io sintetizzo, sotto il profilo umano una persona gradevole, sotto il profilo professionale una persona capace, sotto il profilo della dignità e della trasparenza una persona anche da questo punto di vista degno del massimo rispetto. È così, assolutamente, no? Benissimo. Anche perché colgo l'occasione per soggiungere un piccolo particolare. Molti giornali hanno messo in luce la differenza economica e retributiva che ha avuto il dottor Genchi fra lo stipendio di vice ispettore e il reddito che denunciava, contrariamente a molti indagati, in relazione al suo lavoro. Ma avrebbero dovuto mettere in relazione quello che il dottor Genchi ha guadagnato con quello che avrebbe potuto guadagnare qualora avesse messo la sua capacità professionale e tecnica a disposizione dei privati. Questa è una rinuncia, chiaramente, che ha fatto il dottor Genchi, no? Ha preferito lavorare per il pubblico. Questa è una scelta che a me fa molto piacere come cittadino. Certamente, poi, ho capito se ha fatto delle cose che non doveva fare, questo è un problema suo, io non posso che giurare alla luce di quello che ho, non credo che abbia fatto questo, anche perché lo avrebbe fatto da tanto tempo. Ecco, veniamo ad un discorso invece più generale e poi ci introduciamo verso quella che è la sua professione. Ma a suo giudizio è facile farsi cogliere dalle tentazioni quando si entra dentro i meandri della giustizia, ma soprattutto dentro i segreti delle persone sulle quali i magistrati che vi chiamano come consulenti indagano? Quindi è facile cadere in tentazione oppure, ecco, visto che come lei sa io amo parlare franco, ecco, questa tentazione lei l'ha mai avuta, l'ha mai vista in qualche suo, come dire, collega consulente, oppure effettivamente come lei ci sta testimoniando voi siete tutte persone degnissime al di sopra di ogni sospetto, ma soprattutto catalogatissime? Non dimentichiamoci che lei è un ex funzionario della Banca d'Italia e la Banca d'Italia vuol dire una scuola tra le prime in Italia. Assolutamente no, perché i consulenti, come ogni categoria, dal magistrato al militare, eccetera, hanno in sé il buono e il cattivo. Per quanto riguarda la mia storia personale, è quella che conoscevo del dottor Genchi, che ho avuto modo di conoscere, è pubblica, tra l'altro, quindi non sono io a scoprirlo perché prima non lo conoscevo. Io personalmente sono stato ispettore della Banca d'Italia, ho percorso tutti i gradi fino a quella apicale di ispettore, per cui già allora, se volevo utilizzare in modo scorretto, in modo improprio, il mio quello di cui venivo a conoscenza, io ho fatto parte anche del team dello scandalo nell'Atalanta, quindi cose io ne sapevo. Questa tentazione a me personalmente non mi è mai sfiorato, né prima né quando mi sono passato esclusivamente a condurre indagini per conto finanziario e per conto dei magistrati. Ecco, allora quindi io personalmente non ci penso proprio, perché se avessi pensato a questo invece di fare questo avrei offerto i miei servizi ai privati. Certamente. Guadagnando certamente, ma molto di più. Indubbiamente. Molto di più. Anche vorrei, perché lo Stato paga poco e male. Sinceramente, lo si fa, se non si ha una pulsione sociale, questo non si fa. Assolutamente. Ecco, attualmente lei, dottor Sagona, per quale procura sta lavorando? Napoli. Ma in riferimento a quale? No, non è Napoli per altri motivi. Ah, ecco. Quindi non può dire assolutamente per cosa sta lavorando. E la vicenda invece, why not, Catanzaro? Sì, in passato ho fatto il crack per grani, no? C'è stato quello. Ecco, sono stato lì. Volevo dire invece per quanto è passato, ci sono già delle sentenze. Ecco, quindi, per quanto riguarda invece Catanzaro, il suo ruolo è terminato, è finito oppure è ancora in piedi la sua attività? È avvenuto questo. Io sono stato, dopo la vocazione delle inchieste, il nuovo pool di magistrati, e segnatamente nella persona del dottor Bruni, era il procuratore di Crotone, della DDA di Crotone, applicato alla Reunione, mi ha riconfermato nell'incarico per cui ho proseguito a lavorare, ecco, avendo come referente il dottor Bruni, perché nell'ambito delle deleghe che si erano redistribuite, il dottor Bruni curava dei settori che riguardavano più vicino. Io la interromperei un attimo, dottor Sacconi, perché così almeno diciamo ai nostri radioascoltatori che la prima parte della nostra chiacchierata con il dottor Sagona, ex ispettore della Banca d'Italia, consulente delle procure, si interrompe qui in un momento cruciale, vale a dire l'inchiesta Why Not. La riprendiamo domani, lo dico quindi a tutti, la riprendiamo domani per addentrarci ancora di più nei segreti di un consulente delle procure italiane. Da Roberto Calullo una buona giornata, grazie in regia a Giorgio Mattei, in studio a Laura Faggini, a risentirci domani.